Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È arrivata l'ora del POS. Commercianti, artigiani, professionisti e chiunque sia in grado di fornire una merce o un servizio ai consumatori non potranno più dire no. Sopra i 30 euro di spesa diventa obbligatorio dare la possibilità al consumatore di pagare anche con carta di credito, di debito e bancomat. Quindi è obbligatorio dotarsi del POS, il Point of Sale, che permette pagamenti non in contante con le carte. La misura riguarda tutti, dal dentista all'architetto, dal falegname all'idraulico. Con il POS tutti i pagamenti sono tracciabili. L'obiettivo infatti è anche di dissuadere dall'utilizzo del contante e colpire l'evasione fiscale. Non mancano però le polemiche. Intanto nel decreto che introduce questa novità non sono previste sanzioni per chi non rispetta l'obbligo, ma si parla anche di regalo alle banche. Uno studio di Confesercenti stima in 1.200-1.700 euro annui e a carico delle imprese, degli artigiani e delle aziende il costo per il POS fra installazione, canoni e commissioni. E conto alla rovescia anche per un'altra. Ho sentito solo lamentele. Non so perché, ma questa mattina vorrei interrogare il mio pubblico, visto che da ieri avete avuto tutte le indicazioni di tipo istituzionale, giuridico, economico riguardo all'introduzione del POS. Oggi, dopo un giorno di POS, come vi sentite? Avete provato a chiamare l'idraulico a casa, a farvi sturare il sifone e poi andare lì con il vostro, con la vostra carta di credito e guardare la sua faccia perplessa come se voi aveste in mano un alieno? Avete provato ad andare a fare la spesa al vostro droghiere abituale, a prendere i due etti di mortadella, a prendere la ciriola e dire pago con la carta di credito, a vedere quello che comincia a venirgli la sudarella, a dire ma non c'ho il rotolino della carta, non me prende la linea, ci sono dei problemi. Avete provato ad andare dal vostro avvocato, dal vostro commercialista e dire oggi ti voglio pagare con il POS, vedere quello dice ma come fai, fammi un assegno, vediamo se ce l'hai cash, vediamo se c'è qualche altra maniera, perché sì, in effetti c'è un costo, ma c'è una sorta di riottosità nazionale ad usare la moneta elettronica. Sembra quasi che noi siamo un paese in cui la carta di credito è qualcosa che comunque sancisce l'appartenenza a un censo. Non si capisce perché un pensionato non può avere la carta di credito, ma i poveri anziani come fanno? Io continuo a vedere vecchi che escono dalle poste infilandosi i pacchi di dobloni dentro le mutande e già pronti sono dietro con le motorette per fargli lo scippo. Beh, come l'avete vista, come l'avete pensata? È stato un giorno possibile per voi? 800240024. È uno strumento che ormai è entrato pienamente a far parte della nostra vita quotidiana. Parliamo del POS, acronimo inglese per indicare un point of sale. Quello strumento grazie al quale è possibile fare acquisti nei negozi tramite carta di credito, di debito o prepagate. Concretamente un POS è un dispositivo elettronico collegato al centro di elaborazione della propria banca di appoggio. Per utilizzarlo è sufficiente che il commerciante strisci la carta di pagamento nell'apposita banda e faccia digitare al cliente l'eventuale codice PIN. A questo questa punto, è la carta di credito spiegata alle persone semplici, funziona così, non so se avete mai visto, ma è molto più facile vedere la macchinetta per il POS in mano a qualche cingalese, a qualche indiano che ha una bancarella di frutta, che naturalmente ce l'ha sempre in mano, non so perché per loro è facile, per gli altri è così difficile. È vero, sì, ha un costo, probabilmente c'è un problema che non ho strumenti culturali io per affrontare, per cui a noi nel nostro paese costano moltissimo le commissioni bancarie, ma uno fa una scelta. Dice benissimo, vado nei posti dove posso pagare comunque sempre cash e preferisco comunque andare senza contante dietro, senza contante al seguito, e trovo una grande comodità. Questo non è che corrisponda a fare un piacere alle banche, ma c'è probabilmente qualcosa di più, c'è un motivo psicologico, c'è qualcosa di profondo, c'è qualcosa di strano. La norma in sé è abbastanza ridicola, perché se è obbligatorio tutti devono averlo e non se ne discute. Il fatto che non ci sia una sanzione per chi non ce l'ha già comunque apre un margine di ambiguità, perché io adesso vi pongo alcune domande al limite del paradosso. Faccio la spesa a un supermercato, beh, i supermercati ce li hanno tutti, comunque faccio la spesa in un negozio, arrivo alla cassa con il mio carrellino pieno di roba, dico pago con la moneta elettronica, dico non ce l'ho, devo pagare i contanti, lascio lì il carrello, peggio per loro, rimettono tutto nei vari cassetti. Mi posso acquistare un abito, posso fare la spesa in un negozio di scarpe, se mi dicono che non hanno moneta elettronica, cosa impossibile che ce l'hanno quasi tutti, evidentemente lascio lì la merce e non andrò più in quel negozio. La cosa più limacciosa è andare in quei ristoranti alla portata di tutti, dici pago con la carta credito, e no, non ce l'abbiamo, scusate, non ce l'abbiamo, o ci abbiamo soltanto il bancomat, ma il POS è lo stesso, soltanto il bancomat. Perché? Perché il bancomat prevede un credito immediato, ma qualcuno dovrà prendersi pure carico di questo costo. Come la pensate? 800 24 0024. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io stamattina sono andata a pagare il bollo all'Automobile Club della macchina e ho pagato un euro in più perché mi hanno detto che oltre i 150 euro pagati col bancomat si paga un euro di commissione, perché le banche richiedono la commissione. Non ho strumenti per risponderle, ma questa è una cosa che è stata introdotta questa mattina, ma io penso che il bollo sia sempre pagato con carta di credito, con usualmente pago col bancomat. Gli hanno accreditato la commissione, auguri, sì. Non so che dirle. Va bene, cosa vuole, non pagare la commissione il fatto che ha pagato la carta di credito? Non so a chi debba essere accreditato, addotto questo problema. Questa non è una trasmissione economica, voglio sapere, lei abitualmente paga con la carta di credito, a parte sempre, il bollo? Sempre, anche cifre minime, ma uso sempre il bancomat, non la carta di credito. Se usa il bancomat nessuno si porrà il problema, perché hanno un accredito immediato, quindi per loro non è un problema. Ma non è mai stato. Questa mattina, ma si è informata se è una cosa che accade da ieri, perché c'è stato, diciamo, l'obbligo del POS, oppure è una cosa usuale che oltre 150 euro. No, non è usuale. Non mi risulta, sinceramente a me personalmente, per quello che posso essere, non mi risulta. Però anche quando si va a fare un bonifico in banca si paga la commissione comunque. Sì. E quindi evidentemente il servizio delle banche non può essere gratuito. Qui non voglio difendere le banche e mi fermo perché non è il mio argomento. Però vorremmo sempre botte piene e moglie ubriaca, vogliamo la libertà di avere qualcuno che si pensi ai nostri pagamenti, e vorremmo questo fosse gratuito. Mi sembra un po' difficile. Emiliano, mi faccia capire. Sì. No, non mi fate addentrare in trasmissione a Deborah Rosciani, quella è roba sua. Io stamattina voglio sapere se qualcuno è impattato con lo sguardo perplesso alla richiesta del pagamento con carta di credito a un giorno dall'introduzione della quasi obbligatorietà, perché non c'è un obbligo se non c'è una sanzione che preveda appunto una sanzione per chi non ottemperi a quella legge. Emiliano, vediamo. No, io non mi sono impattato con la faccia perplessa dell'idraulico o dell'elettricista, però secondo me questo pagare con il POS va sempre a vantaggio delle banche, perché io penso che uno che voglia pagare... è il loro lavoro, scusi, adesso non è che io faccia amore con le banche, è il loro lavoro, cosa devono farlo, gratis, scusi. Sì, no, però il governo ci ha venduto questa cosa come per combattere l'evasione fiscale, ma tanto io penso che uno che voglia pagare in nero pagherà comunque sempre in contanti. Non è certo, se uno si vuole mettere d'accordo e dice ti faccio risparmiare se paghi in nero, è logico, certo. Il nero può passare per mille altre maniere, però mi sembra logico che... Il fatto che la moneta contante in tasca sia tutto sommato un vantaggio che scompaia per tutti mi sembra innegabile. Vado al supermercato, compro un litro di latte e lo pago con la carta di credito. Anche io, però, esattamente. Secondo me, il fatto che però tu debba accollare all'idraulico, che poi sicuramente si rifarà sul consumatore, perché alla fine uno i costi deve ammortizzarli, perché se non mi sbaglio ti costa circa 30 euro al mese questo POS. Però avrà più clienti, io la vedo anche così. Anche a me gli strumenti del mio lavoro costano e non è che li addebito alla persona che dico oggi se ti scrivo un pezzo costa di più perché ho aggiornato il software, l'ho pagato di più. Fa parte del servizio che io fornisco come professionista un altro. Dobbiamo sempre avere questa cosa. Mi sembra abbastanza normale che una prestazione di un artigiano che mediamente non costa 30 euro, non va mai, diciamo che il prezzo va dalle 80 in su, capito? Non è detto che una persona in casa debba per forza avere cash con la cifra, e non è detto che con la prestazione debba esserci anche l'offerta di poterla pagare al nero risparmiando qualcosa. Mi sembra un po' limitativo, non vedo il grande problema. È che avrei preferito una legge sicura, dice usatelo, e chi non lo usa peggio per lui, c'è una sanzione, così si rientra nell'ambito limaccioso che rimarrà tutto come prima. Su questo sono d'accordo, che sia un vantaggio per noi consumatori va bene, però che ce la vendino, che è uno strumento per combattere l'evasione fiscale, secondo me, è una menzogna. Lo strumento, secondo me, è perfetto per evitare che l'idraulico non paghi le tasse. Adesso pigliamoci solo con gli idraulici, un professionista in genere. Io non ho un libro professionista, io sono un libro professionista e pago... Tanti medici intascano il doblone e non fanno ricevuto. Secondo me lo strumento è molto semplice, è permettere agli operai, a tutta la classe che non può di scaricare le spese. Questo secondo me è lo strumento, non il POS. Questo è anche utile. Però secondo me lo strumento migliore è quello, dare la possibilità a tutti di scaricare le spese, dall'idraulico all'elettricista. È giusto, sono spese di gestione di casa propria, uno le fa perché non può scaricarle. Trovo giustissimo quello che dice. Paolo, buongiorno. Sì, salve. Ho sentito alcune cose in cui sono completamente d'accordo, come quella appunto di scaricare ogni spesa che ognuno di noi ha. Ecco che in questo modo è l'unico modo per combattere l'evasione. Io personalmente, a me è antipatica il pagamento elettronico. Lo trovo antipatico. A me piace pagare coi contanti. Le piace avere la mazzettona di soldi e fare frusciare la moneta? È una sua lecita e assolutamente incontrovertibile parafilia. Le ha questo piacere, nessuno glielo può negare, però non può pensare che il mondo... Me lo stanno negando, però, perché ci deve essere solo questo modo elettronico di pagare, perché? Non è solo questo modo, lei può continuare a pagare cash, nessuno glielo impedisce. Se lei ha la carta di credito, loro devono essere in grado di essere pagati con la carta di credito, come per i taxi. Molte volte è una tariffa molto alta, uno non ha contante, tira fuori la carta di credito, apriti cielo. Non tutti i taxi sono attrezzati. Molti taxi ti chiedono 2 euro in più se vuoi pagare con la carta di credito. Ecco, bisognerebbe mettersi d'accordo sul fatto che la moneta contante può tranquillamente essere messa in un secondo piano e prevalgano i pagamenti elettronici. Questa è un'idea, più che altro. Lei è l'ospite adatto questa mattina, voglio capire proprio sull'aspetto psicologico, poi sull'aspetto economico-finanziario, colleghi favolosamente attrezzati per darvi tutte le risposte. Lei fa parte di un fronte di persone per cui il contatto fisico epidermico con il denaro è rinunciabile, e se le toglie questo, le toglie il senso della transizione. Ci fermiamo un istante, a dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Molti i vantaggi offerti da questo tipo di sistema: sicurezza e immediatezza nel trasferimento di denaro, facilità nei pagamenti, niente code in mano. Naturalmente non è che sono tutti d'accordo, mister Nicoletti, non siamo in America, siamo in un paese di tasse ladri. Nicoletti, è un argomento che lei non può trattare senza toccare questioni fiscali ed economiche, chissà perché. Negli Stati Uniti girano con i rotoloni di dollari in tasca e pagano cash anche le automobili. Sì, l'ho visto in tanti film, non lo so, però chi vuole pagare con la carta può pagare tutto con la carta, mi scrive un altro ascoltatore. Però carta di credito è gratuita negli Stati Uniti, le spese varie sono detraibili da redditi, Franco da Vicenza. Poi le spese mediche, mi scrive un altro ascoltatore, si possono detrarre senza aggravi, ma pochi richiedono la fattura. Io non voglio entrare in una trasmissione da salvadanaio, signori, voglio semplicemente dire perché io non posso pagare con la carta di credito quando vado a mangiarmi una pizzetta e mi dicono le carte non le prendiamo. Perché non le prendete? Il mio conto di 50 euro, poco che sia, due pizzette e due birrette prese con mio figlio, non vedo perché non posso pagarle con la carta di credito. Perché? Perché quando vado e c'è scritto non si accettano carte di credito, mi viene da ridere. Perché non accettate le carte di credito? Fa parte del servizio. Io nel negozio in cui un esercizio vedo non si accettano carte di credito, io non rimetto più piede, è il mio modo d'essere. Qualcuno è d'accordo con me? Poi non voglio entrare nelle vicende lacrimose e nei piagnistei nazionali, e costa tanto all'anno, è un servizio che serve, che permette una maggior soddisfazione del vostro cliente, e attrezzatevi, avrete più persone che la pensano come me, che verranno a consumare nel vostro esercizio. Daniele. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno, io semplicemente volevo dire questo. Questa cosa che ci stanno vendendo come un contrasto all'evasione fiscale è un favore alle banche. Sì, ma dice sempre la stessa cosa. Ma sono tre giorni che non si dice altro. Possiamo non si può andare oltre. Certo. Vabbè, è un servizio alle banche. Andiamo oltre. Secondo me la cosa che non è che difendo le banche, è che così si rimane immobilizzati comunque con il fatto che bisogna portarsi dietro un fascio di soldoni. Se una sera vuol portare uno la famiglia in pizzeria, lo trovo ridicolo, capito? Che ci siano ancora persone che ce l'hanno e persone che non ce l'hanno, perché? Sono più cretini quelli che hanno la possibilità di pagamento con carta di credito rispetto agli altri, perché adesso è una furbata rispetto a chi lo fa. Ci sono posti in cui da anni si paga sempre con la carta di credito qualunque cosa, altri posti in cui lo stesso paio di calzini devi pagarlo cash nel negozio accanto con la carta di credito. Cosa sono? Gli uni più furbi e gli altri più cretini? Non lo so qual è la soluzione. No, ma uno deve avere la libertà di poter pagare come vuole, però l'imposizione del POS, facendo ai fini contro l'evasione fiscale, secondo me non è vero, che bastava rendere parlante lo scontrino del panettiere tutti come quelli della farmacia. Lo detraiamo allo 0,1% a una percentuale che verrà stabilita. A questo punto lo scontrino diventa, non è più un pezzo di carta che mi impiccia e che il negoziante me li tengo da parte tutti. Quando faccio il 7,30 li metto dentro, automaticamente i corrispettivi escono tutti dal sommerso. Ecco, ma com'è questa norma così saggia che mi suggeriscono tutti gli ascoltatori? Non è mai trapelata nelle menti di qualcuno che poi fa le leggi regolamenti? Non lo so, io non faccio il politico, però insomma, cerco di pensare con la mia testa e pensare in modo efficiente. Così come lo facciamo per la farmacia, perché non lo possiamo fare per il lattaio? Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Grazie. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, io ho un laboratorio di gastronomia, sono perfettamente d'accordo con lei, nel senso che per me non è un costo. Da quando io ho aperto circa 5 anni fa ho messo subito il TOS e i buoni pasto, perché per me è un'opportunità, i clienti vengono da me perché sanno che possono spendere in un certo modo. Infatti ho avuto ragione. L'unica cosa che mi sono sempre chiesto è se all'estero i costi sono uguali a noi. Effettivamente da noi sono un po' alti, io questo non lo so sinceramente, non so nemmeno se lo sa lei, però... Alla fine per me è stato... Mi fido dei messaggi che mi mandano, che ci sono paesi del Bengodi dove non si pagano i costi bancari, può essere, non dico di no, ci sarà un incentivo, bisognerà lavorare su questo, ma io faccio un passo indietro, lo faccio da consumatore in questo momento e non mi pongo grandi problemi se faccio un favore alle banche o a chi faccia un favore. Io fra il suo laboratorio di gastronomia e quello accanto, se vedo sopra la sua vetrina la vetrofania con la carta di credito, entro da lei preciso, subito, non ci penso due volte, perché mi risolve un problema. Mi risolve il problema di dover andare al bancomat a prendere gli spiccioli se mi servono poi per altre cose, che non posso naturalmente pagare sempre tutto la carta di credito, capito? Mi piacerebbe, non è sempre possibile. Se mio figlio mi chiede 20 euro per uscire, non è che posso dargli una carta di credito. Chiaro, di averci qualcosa nel portafoglio. Ogni mattina c'è il saccheggio sistematico dal mio portafoglio da parte di tutta la famiglia, è chiaro che qualcosa deve rimanerci dentro. Quindi lei mi fa un favore, quindi sono contento. Artigiano Corrado è morto. Lorenzo, eccomi qua. Sì. Buongiorno Nicoletti. Allora guardi, io mi rifaccio al discorso chiarissimo della nuova regolamentazione. Io sono di parte perché io ho uno scooter e quando pago 9,50 euro di benzina do il bancomat, e questo è normale. Però mi sembra che ci sia cattiva fede sia da una parte che dall'altra. Mi spiego. Chi telefona per dire: ma come faccio, io non posso più pagare in contanti? Non è vero. Può pagare come vuole, bravo. Può pagare come vuole. Secondo, la vogliamo piantare con questa cosa che dobbiamo continuare a rubare soldi uno all'altro? Io li rubo a lei quando non pago le tasse, non li rubo allo Stato. Lo so li bene. Rubo a lei. E questa è una cosa vergognosa, una cosa di cui io mi vergogno profondamente. Dall'altra parte, e qui non voglio dare... E nessuno scende in piazza per questo, si scende in piazza per il diritto di pagare con i centesimi, ma non si scende in piazza perché ci sono dei furbastri che non pagano le tasse. Ci sono persone che mandano i propri figli all'ospedale con i soldi miei e i suoi. A me i figli loro all'ospedale gli manderei con i soldi, col mio cash, ma no con la loro furbizia, che dir si voglia, anzi furbizia. Ma questa è una cosa che mi offende profondamente. Dall'altra parte le banche... Questa è una cosa, è vero, io non ho nessuna competenza per dirlo. Sì. Da noi non c'è l'idea della vergogna sociale per chi non paga le tasse. Ma chi deve essere? Guardi, non c'è da noi. Non... In altri paesi uno che non paga le tasse ha una sorta di lettera scarlatta addosso. In Svezia si è suicidato un odontotecnico 20 anni fa perché venne messo in prima pagina perché i suoi figli si vergognavano di usare i servizi sociali, socialmente utili, con i soldi di altri. Ora io dico, le banche guadagnano 1.500 euro a POS, è probabile che sia un po' meno, ma rimane il fatto che lei lavora gratis, io non lavoro. Ma quello gratis, che ho detto anch'io, io non è che amo le banche in maniera particolare, ma dire, se mi danno una macchinetta che richiede manutenzione, uso, esercizio, però, non è che può essere gratis. Certa politica decide che le banche sono il male, sono il peccato originale e quindi tutto è male, invece non ci ricordiamo, almeno io non vedo una famiglia ambiente, che se non ci fossero state le banche io non avrei comprato la macchina, avrei comprato il motorino, non avrei comprato niente, perché mi ha aiutato la banca, è chiaro che mi chiede gli interessi e fanno a volte delle cose che... Lorenzo, scusi un attimo, sentiamo Duccio, sì, perché ho poco tempo. Duccio, buongiorno, ex direttore di banca. Salve, sono vivo e sono stato all'estero dirigente di una banca. Oh, ci dia allora, visto che lei è il primo tecnico vero che sta nella nostra trasmissione, ci dica un punto di vista onesto, visto che in banca non ci sta più, non rischia più niente, può dire quello che pensa. Io riassumo, no, in banca ci starei ancora, ma non è quello, anzi sono uno degli avversari delle banche, perché sono sempre stato a favore del soggetto debole, del consumatore. Anche vada al punto, vada al punto. Lo so, ma mi stuzzica. Quindi andando al punto, si stuzzichi dopo da solo. Sì. Andando al punto, si tratta di questo. Prima di tutto la carta di credito ha una farragine amministrativa incomprensibile. Si immagini quando uscì la prima carta Comites o la carta sì dopo, c'erano da riempire 3 moduli e 8 foglietti a carbone. Secondo, costa commissioni enormi al commerciante, quindi sì, tacitamente si acconsente il pagamento in contanti con un... Ma in altri paesi è così, lei che ha viaggiato il mondo? Io sono da 43 anni a New York, sono in Italia per caso. Ecco, mi dice questo famoso paradiso dell'America, come accade in quel posto? No, non tutto è bello, ma è tutto migliore di qui. Quindi diciamo le commissioni sono inferiori, la gente usa... Il servizio della carta è totalmente gratuito al cliente, a meno che non dilazioni i pagamenti. Poi le commissioni sono negoziabili e ragionevoli per il commerciante e poi tenga presente che i margini comunque, i vari passaggi sono ridotti in America, quindi un paio di scarpe che passa per 3-4 mani, qui probabilmente passa per 2 mani, questo è il punto, quindi vi sono dei carichi inferiori. Più ma solo una domanda secca, la risposta secca, comunque è una strada verso il miglioramento imporre il POS oppure è inutile? Sì o no? No, io non legherei mai questa vicenda stupidamente ripetuta tra l'evasione fiscale e la carta di credito. Abbiamo capito, questo allora è quello che dicono i nostri ascoltatori. Non risolve l'evasione fiscale, forse però è un passo avanti nella velocizzazione delle transazioni. A domani.